Bene, allora, buonasera a tutti intanto e grazie di essere qui stasera per questa iniziativa, per la presentazione di questo libro, Zero in condotta, i 10 anni di movimenti a Bologna e di Zig.it e appunti sull'informazione autogestita oggi. Io devo fare soltanto una breve introduzione che così mi è stata affidata avendo avuto la possibilità di conoscere questo progetto dagli inizi, quando insomma è nato nella versione di Zig.it, quindi nella sua versione online, e poi perché ho avuto la possibilità di diciamo partecipare alla realizzazione di questo libro tramite la realizzazione di una tesi di laurea in giornalismo e cultura editoriale che è diventata parte integrante del volume, in particolare la seconda parte, quella che insomma analizza, approfondisce tramite un'intervista fatta alla redazione, dalla redazione, un po' quali sono gli aspetti caratteristici di questo progetto, di questa esperienza. Poi vicino a me c'è Valerio della redazione di Zero in Condotta e altri collaboratori e redattori sono insomma sparsi tra il pubblico e magari dopo potranno contribuire anche loro a questa chiacchierata. Dunque, cos'è Zig.it? Io parto di solito dalla formula, dalla definizione che il giornale si dà nel presentarsi anche proprio nella home page, nella prima pagina, e quindi un quotidiano online autogestito. Ognuna di queste parole diciamo che tende a restituire un pezzo importante delle caratteristiche che rendono tali questo progetto, perché Zig è un quotidiano, nel senso che volutamente una delle sfide, come poi racconta anche la redazione nella seconda parte del libro, una delle sfide principali che fu posta proprio alle origini e alla nascita del giornale fu quella di davvero promuovere un'esperienza di informazione quotidiana, quindi che tutti i giorni fornisse informazioni, aggiornamenti e materiale, facendo insomma proprio lo sforzo di voler davvero creare un prodotto di questo genere che potesse dare degli aggiornamenti, delle informazioni, una copertura costante su quelli che sono i temi su cui si focalizza, si concentra l'attività del giornale. Ma quotidiano vuol dire anche non solo un aggiornamento giornaliero, ma anche insomma una forma giornale, e quindi un'esperienza che, per quanto autogestita, tende comunque a cercare di evolversi, di svilupparsi secondo dei criteri giornalistici, con una redazione orizzontale sicuramente, ma comunque una redazione che organizza dei contenuti, li discute, li rende pubblici secondo una linea editoriale, secondo chiamiamole linee guida che servono un po' alla realizzazione giorno per giorno del giornale, e quindi non una, tra virgolette, semplice bacheca, e quindi un luogo sul web su cui in maniera più o meno automatica vengono riproposti contenuti formulati altrove. Ma insomma c'è il tentativo di portare avanti un'esperienza giornalistica vera e propria, però autogestita, arrivando quindi ad un'altra parola che fa parte un po' della definizione di fondo del progetto, nel senso che tutto quello che ho detto rispetto al punto precedente comunque si declina nella forma di un'esperienza editoriale che non ha una gerarchia interna, si basa su un lavoro collettivo redazionale del tutto orizzontale, in cui non c'è una figura come può essere una redazione diciamo mainstream di un media ufficiale, in cui ci sono capi redattori o vice capo redattori o direttori che realmente abbiano un ruolo di diciamo guida, di timone rispetto al giornale. È autogestito perché tende a replicare anche sul fronte dell'informazione e della comunicazione le pratiche dell'auto-organizzazione, dell'autogestione, che poi sono proprie dei movimenti che questo giornale racconta quotidianamente. Ovviamente online, perché Zig.it dà ormai un po' più di 10 anni a questa parte, è principalmente un prodotto di informazione che si sviluppa, che insomma la cui voce viaggia sul web e tramite canali multimediali, questo pur avendo delle, posso dire, solide radici cartacee, perché come poi magari dopo ci verrà raccontato da chi parlerà dopo di me, questa è, diciamo, l'ultima evoluzione di esperienze precedenti che in altre epoche politiche, storiche, sociali sono nate con carta e inchiostro, e questa, insomma, ne rappresenta un po' un'evoluzione, un adattamento in chiave contemporanea, rispondendo, insomma, ad esigenze di vario genere, non solo economiche, che è la prima cosa che magari può venire in mente, ma insomma è anche, anche altro, che magari ci torniamo dopo. Quotidiano online autogestito a Bologna, perché indubbiamente la vocazione di questo giornale è quella di ragionare, di operare in chiave locale, quindi di occuparsi di ciò che combinano i movimenti sociali a Bologna, diciamo, in provincia, questo non in maniera esclusiva e rigida, nel senso che tante volte, anche in alcuni periodi, anche in maniera costante e continuativa, si è dato anche spazio a notizie, informazioni che riguardassero il resto della regione, il resto d'Italia, il resto del mondo, però diciamo che il focus principale, quello su cui si concentra e che viene ritenuto prioritario, è ciò che accade, insomma, qui a Bologna. Nella quarta di copertina, diciamo che c'è una brevissima descrizione di questo progetto, che intanto dà qualche numero, che si è ritenuto importante segnalare, perché insomma dà un po' restituisce, diciamo, i risultati di uno sforzo che va avanti da 10 anni, e già questo è un, tra virgolette, risultato, un traguardo non da poco per un'esperienza autogestita, ma anche in generale per un'esperienza online, perché poi non sono tantissime le testate, anche magari più ufficiali, più mainstream, con delle basi economiche più solide, che riescono ad evolversi, a continuare per un periodo così prolungato nel tempo, perché invece vediamo un po' tutti che sul web, insomma, le esperienze di questo genere tendono ad avere una natalità, una mortalità molto insomma molto molto frequente. Per cui in questi 10 anni, che vanno da, diciamo, dal marzo, dalla primavera del 2007 fino alla metà del 2017, che è il periodo su cui si concentra il libro, tutto questo che vi sto un po' sintetizzando ha prodotto la realizzazione di 12.500 articoli, di 15.000 foto, di quasi 1.000 audio, 400 video e 10.000 appuntamenti segnalati nell'agenda tra... insomma, come segnalazione di eventi culturali, sociali, politici che i movimenti sociali hanno organizzato, promosso in questa città, e questo, insomma, trova poi il riscontro di alcune migliaia di lettori al giorno che, insomma, utilizzano zig.it, si può dire, come una delle loro fonti quotidiane di informazione. Ovviamente questi sono solo alcuni numeri abbastanza freddi che possono dare un po' l'idea della mole di lavoro, però insomma c'è molto altro e anche di più interessante da dire rispetto a un'esperienza di questo genere, la cui, almeno secondo me, su questo poi chiedo anche a chi parlerà dopo di me o a chi ha voglia anche di intervenire, interloquire dal pubblico per dare un contributo, fare qualche domanda, l'elemento forse più interessante, più caratteristico è quello di provare a tenere insieme una natura indubbiamente auto-organizzata, antagonista, indipendente, chiamiamola come vogliamo, ma che a questo aspetto qui associasse anche la capacità, o quantomeno il tentativo, di risultare anche una fonte di informazione affidabile, in grado di confrontarsi anche con il mainstream, di riuscire magari a volte anche a imporre delle notizie ai giornali, tra virgolette, tradizionali, ufficiali, ma anche di confrontarsi con tutte le sfide che le novità che il web ha imposto soprattutto nel proprio nel decennio in cui questo progetto si è sviluppato, e quindi la multimedialità e quindi l'importanza del materiale fotografico, video e audio che viene affiancato agli articoli, il rapporto, diciamo, ambivalente, non facile, a volte conflittuale, con la self communication, quindi l'autocomunicazione di massa, l'uso dei social network, la possibilità per tutti oggi di riuscire a parlare al resto del mondo, o almeno così si tende a credere, spesso in maniera illusoria, senza la mediazione di un prodotto giornalistico, e altri temi, anche questi, insomma, interessanti e attuali, come quello delle fake news o dell'overload informativo, dell'eccesso di informazioni, del rumore di fondo, in cui anche un'esperienza come questa, almeno a mio parere, si prova a muoversi per riuscire, insomma, a incanalare alcune informazioni, alcuni ragionamenti, in alcuni casi alcuni approfondimenti, in maniera, insomma, un po' più solida di quello che spesso vediamo circolare quando ognuno di noi sfoglia il suo profilo Facebook oppure naviga in rete. Queste sono soltanto, insomma, alcuni spunti e un tentativo, insomma, molto sintetico di provare un po' a spiegare cos'è questo giornale per chi magari lo conosce, lo legge, ma anche per chi non lo conosce, ma anche per chi lo legge e magari non si è mai posto, insomma, tanti interrogativi su come poi si fa a realizzare un'esperienza di questo genere. Detto questo, io intanto passo la parola a Valerio, che magari, diciamo, per cominciare ci può fare anche un po' un piccolo excursus, se vogliamo, storico, per spiegare da dove nasce questa esperienza, e poi, se vuole, anche passare un po' ai temi che riguardano l'oggi, perché no, anche, insomma, eventualmente le prospettive, il futuro di un giornale come questo, ma in generale dell'informazione, della comunicazione autogestita, nei tempi che insomma, che vediamo correre, in quelli che magari si prospettano davanti. Per esperienza, insomma, possiamo dire che nelle precedenti occasioni queste presentazioni sono sempre state impostate in maniera molto, come possiamo dire, non informale, per cui, insomma, al di là di questi, tra virgolette, interventi, se poi c'è qualcuno che vuole interrompere, fare una domanda, dire la sua, senza problemi, il microfono è qua. Grazie. Allora, diceva Maurizio prima che questa esperienza è un'esperienza giornalistica autogestita che si confronta con gli strumenti della comunicazione odierni, ma che ha una storia di anni, di decenni, che parte da un'esperienza simile, ma sul terreno della produzione di un giornale cartaceo. Mongolfiera, dal 1984 al 1998, poi Zero in Condotta, prima quindicinale, poi settimanale, e distribuito in edicola. La cosa che ha mantenuto, cioè la modalità di lavoro che ha mantenuto in qualche modo anche questa redazione, che è composta al 99% da ragazzi che non hanno partecipato alle esperienze precedenti, per età sono l'unico che ha partecipato alle esperienze precedenti, ahimè, però dico, la modalità che abbiamo deciso di mantenere come elemento distintivo anche di un lavoro collettivo è stata quella, appunto, di utilizzare questa orizzontalità nel modo di costruire l'informazione anche per discutere attraverso incontri redazionali i temi che il giornale deve trattare, soprattutto per quanto riguarda gli editoriali, insomma, che sono un po' un ragionamento politico su avvenimenti che accadono in città, e quindi si dà anche un giudizio di merito. Non ci sono persone specializzate a fare quello come avviene in un giornale tradizionale, ma c'è qualcuno che redige l'articolo, ma poi c'è una discussione collettiva che appunto lo sistema introduce degli elementi nuovi, insomma lo modifica. E questo credo che in qualche modo sia un lavoro straordinario che permette anche alle persone, soprattutto ai ragazzi più giovani, di avere un percorso di crescita. Dico questo perché oggi l'informazione come viene gestita al di fuori, diciamo così, del circuito tradizionale. Nel circuito tradizionale c'è chi dà degli ordini su come il giornale deve essere costruito nel giorno successivo, e ci sono delle persone che eseguono. Molto spesso queste persone, pur appartenendo, diciamo così, anche alla categoria dei giornalisti, vivono delle situazioni di precarietà pazzesche. Cioè, oggi c'è una redazione costituita da alcuni soggetti che hanno dei compiti di direzione e degli altri che eseguono con un lavoro che viene svolto e viene riconosciuto su un terreno di precarietà estremo, insomma. Cioè, e il nostro è un discorso completamente opposto, che fa un po' riferimento invece a un lavoro che è stato fatto in passato, che vedeva nel collettivo redazionale di una rivista o di un giornale un elemento di discussione, intanto sui temi che il giornale doveva affrontare, ma anche un elemento a volte di elaborazione teorica sui contenuti che il giornale avrebbe trattato successivamente. E questo è una situazione completamente diversa al terreno che informativo e comunicativo prioritario dell'oggi, cioè i social network o il blog, dove una persona scrive una cosa, non la discute quasi mai con nessuno, e quelli che leggono la cosa che viene scritta, molto spesso il tipo di giudizio che danno è un piccolo commento oppure un segno di approvazione o di non approvazione. Insomma, però c'è veramente un livello che è distaccato tra chi produce l'informazione e chi la riceve. Un lavoro di collettivo redazionale invece prevede il fatto che questa discussione che produce poi l'articolo o il testo è una discussione che rispetto alla quale l'autore deve comunque, tra virgolette, mediare la sua posizione nel confronto con gli altri. Questa cosa non è una cosa banale, perché aumenta la consapevolezza dell'articolo che poi uscirà in un secondo tempo. Questo è un lavoro che importante, che ha una storia anche dal punto di vista del giornalismo autoprodotto, autogestito in questa città. Casualmente a VAG, che è il centro sociale dove ha sede la redazione, la sede della redazione ha un rapporto stretto anche con un centro di documentazione, il centro di documentazione sui movimenti intitolato Francesco Russo e Carlo Giuliani, che raccoglie moltissima produzione, soprattutto di giornali e di riviste degli anni 70. Un elemento che ha caratterizzato anche, diciamo, la cultura alternativa underground di questa città, nel senso che appunto soprattutto nella seconda metà degli anni 70 lo sviluppo delle tecnologie nel settore della stampa, il passaggio dalla tipografia alla litografia, ha permesso a tante realtà piccole anche di farsi il giornale per conto proprio, cosa che prima appunto era impossibile. Prima c'erano delle rigidità a cui bisognava soggiacere, cioè il fatto che per fare una pagina di un giornale i caratteri dovevano essere inseriti da una persona specializzata attraverso una linotype, quindi era una cosa molto complessa e quindi produceva una rigidità che a partire dalla seconda degli anni, metà degli anni 70 salta completamente, perché comunque uno con la litografia, il giornale se lo prepara, lo scrive su delle strisciate, queste strisciate le attacca su un foglio e si monta la pagina con le fotografie, poi la pagina viene fotografata da una reprocamera, poi dopo si può andare in stampa e quindi questo aspetto ha permesso appunto un uso di questo strumento comunicativo in quegli anni straordinario. Insomma, in una città come Bologna c'erano più di 120-130 giornali che solo nell'anno del 77 sono stati fatti, per capirci. E questa esperienza aveva comunque un'esperienza precedente, che era quella di un personaggio straordinario come Roberto Roversi, un poeta e un intellettuale rilevante nell'orizzonte culturale italiano, che però ha sempre avuto ha mantenuto una sua autonomia per quanto riguardava la produzione di giornali e di riviste. Quindi Roversi è stato uno di quelli che ha fatto decine e decine di riviste, ha costituito redazioni, ha permesso a tanti ragazzi appunto di fare un percorso anche di crescita su questo terreno, e oltre a questo ha raccolto anche tantissime riviste e dentro il centro documentazione, per un passaggio quasi di scatole cinesi, insomma, cioè prima la famiglia di Roversi, quando Roversi morì, donò il fondo delle riviste al centro sociale Bartleby, poi quando Bartleby è stato sgomberato e chiuso, questo fondo è passato al nostro centro documentazione. Quindi diciamo così, tutto il materiale che faceva parte del centro sul 77 si è arricchito di queste riviste che vanno dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 2000, quindi con veramente una quantità di materiale che va dalle riviste di teatro, di cinema, di poesia, di politica, di arte, molto molto ricco. Questa cosa sicuramente ha un'influenza anche in un giornale come Zero in Condotta, che è un giornale di informazione, perché comunque, essendo un quotidiano, ha la necessità di aggiornare su delle tematiche che vengono scelte, insomma, non generalizzate, ma su settori specifici, con un occhio di attenzione alle questioni sociali in questa città, ai movimenti di lotta e di resistenza in questa città, al fatto che di trattare notizie che molto spesso i giornali ufficiali non trattano, e di dare anche voce diciamo a quelli che voce non hanno, con un discorso però che non è, come diceva Maurizio prima, la semplice pubblicazione di comunicati, di riviste, di commenti, di prese di posizione che o un collettivo, uno spazio, un sindacato di base o un comitato di quartiere fanno uscire. Ma il fatto di cercare di mettere assieme questo materiale con un ragionamento, insomma, che tende anche di organizzare questa forma di espressione, che comunque esiste, insomma, cioè nel senso che oggi molti prendono posizione, però queste prese di posizione molto spesso appunto vengono disperse al vento, perché poi nessuno molto spesso le recepisce. Noi abbiamo un'attenzione particolare a questo tipo di realtà, ma al tempo stesso riteniamo che sia importante anche fare inchiesta, perché ormai inchiesta non la fa quasi più nessuno, perché da un punto di vista, diciamo così, produzione giornalistica ufficiale, a fare inchiesta costa, e quindi, dato che bisogna tagliare, bisogna usare appunto anche lì dei giornalisti precari, è meglio fare dei copia e incolla o dei tagli e cuci sulla produzione di notizie delle agenzie, senza svolgere un lavoro proprio di ricerca vero e proprio autonomamente. Noi tutte le volte che possiamo, su alcuni temi, abbiamo fatto questo lavoro di ricerca, a partire dai temi dell'emergenza abitativa, a partire dalla questione degli spazi vuoti, chiusi, sgomberati, lasciati abbandonati per anni. Insomma, alcune delle nostre ricerche sono state poi anche riprese non solo dagli altri organi di informazione, ma anche da ragazzi che stavano facendo ricerca appunto su come la città si andava a modificare. E molto spesso prendiamo anche posizioni, insomma, rispetto a situazioni che si determinano, insomma. Poi è chiaro che ci sono dei temi che sono caratteristici del nostro modo di fare informazione, perché lo abbiamo scritto a più riprese, il nostro modo di fare informazione partigiano, insomma, nel senso che è di parte, nella parte di quelli appunto che si trovano in una condizione di disagio sociale, di subalternità sociale rispetto al potere dominante in questa città, ma non solo. E quindi da questo punto di vista credo che questa esperienza sia un'esperienza significativa, che, lo voglio ricordare, si regge sul lavoro volontario delle persone che fanno Zero in Condotta. Tutte le persone che lavorano alla redazione o svolgono altri lavori più o meno garantiti o molto, molto spesso precari, quell'esperienza è un'esperienza comunque che molti ritengono interessante, che si lega anche poi ad altre cose, nel senso che molto spesso chi produce una notizia e anche chi a volte fa uno striscione o partecipa direttamente a una lotta, cioè molto spesso chi produce la notizia per Zero in Condotta è un soggetto protagonista anche di un momento di conflitto sociale in questa città e non solo. E questo penso che sia la caratteristica del giornale e il fatto anche che ha garantito in questi anni la crescita anche dal punto di vista dei contatti che il giornale ha, insomma, cioè si è partiti da poche centinaia, oggi su alcuni articoli che vengono fatti su quando si verificano determinati episodi in città si arriva anche ai 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21 mila contatti unici, che è una cosa, cioè per chi come me ha un amore spassionato per la carta stampata, che ha fatto un sacco di esperienze appunto di riviste, devo ammettere che questi contatti attraverso, diciamo così, le nostre esperienze di editoria autogestita negli anni passati non sono mai riuscite, cioè Zero in Condotta su carta nei momenti più alti è arrivato a 1.900-2.000 copie, Mongolfiera 2.500, insomma, che erano numeri significativi, però cioè non assomigliano nemmeno a quelli che oggi vediamo appunto avvicinarsi alle cose che pubblichiamo giornalmente. Da questo punto di vista, però, appunto, questo amore per la carta stampata ci ha quasi in qualche modo costretti a fare un libro sui 10 anni di questa esperienza, un libro dove appunto c'è un'intervista collettiva alla redazione, che è stata fatta da Maurizio attraverso anche il suo lavoro per la tesi, ma dall'altra c'è la pubblicazione delle cose più significative che abbiamo selezionato nel corso di questi 10 anni, che rappresentano in qualche modo la storia di Zero in Condotta, ma la storia anche dei movimenti in questa città. Riprendo brevemente la parola, solo ripartivo da quest'ultima cosa che diceva Valerio sull'amore per la carta stampata. Non è un caso, nel senso che alla fine si percepisce poi dalla chiacchierata, dall'intervista che c'è nella seconda parte del libro, viene proprio spiegato che a un certo punto la redazione, al di là del, diciamo, del traguardo da magari voler sottolineare dei 10 anni, si sente anche l'esigenza di voler lasciare qualcosa di tangibile di questi 10, se vogliamo, primi 10 anni di Zig.it, perché se è vero tutto quello che diceva Valerio rispetto alle potenzialità che dà il web, che dà la multimedialità, è anche vero che anche per chi in questo caso produce contenuti è tutto volatile, tutto effimero, è tutto, se va bene, dura un giorno, anche nei casi in cui si si parlava delle notizie che magari hanno avuto un maggior risalto, maggiori lettori, sono riusciti anche a diventare notizie poi che la stampa mainstream ha dovuto riprendere. Anche in quel caso, insomma, la durata e l'incidenza che quelle notizie riescono ad avere è sempre abbastanza rapida a svanire e a sparire, e quindi diciamo che un libro, tornando indietro di secoli dal punto di vista delle tecnologie, delle potenzialità, delle possibilità, quantomeno insomma serve anche un po' a davvero a mettere nero su bianco, ma insomma a fermare, a lasciare una traccia più tangibile di un lavoro di questo genere. E, al di là di questo, credo sia stato molto interessante il passo indietro che ci ha fatto fare Valerio, rispetto un po', raccontandoci un po' anche come determinate esperienze e progetti dedicati alla comunicazione, all'informazione nell'ambito dei movimenti sociali si sviluppavano in altre epoche storiche, sociali, politiche. Emerge, almeno io l'ho letto in maniera abbastanza evidente, il fatto di come appunto in altre epoche contribuire a un progetto di questo genere, scrivere, fare informazione, fare inchiesta, fare approfondimento, fosse anche molto una forma di militanza politica, di attivismo sociale, di intervento, cosa che evidentemente nel tempo si è evoluta, oppure, se volendo essere ottimisti, o si è dispersa, perché non è che oggi non ce ne sarebbe il bisogno, però è andato di fatto che probabilmente l'ultima fiammata da questo punto di vista si è avuta con la stagione di Genova, Seattle e Indy Media. Dopo di quello, diciamo che le esperienze di questo genere si contano sulle dita di qualche mano. A livello, per dire, a livello italiano sono davvero poche le realtà che ancora oggi si impegnano in maniera quotidiana in una prospettiva di questo genere, quindi autogestione da un lato, ma anche, insomma, tra virgolette, professionalità, o quantomeno tentativo di accostarsi anche a una qualità e a un'affidabilità dell'informazione. Le risposte al perché si verifica una cosa del genere probabilmente non c'è una risposta unica. Sicuramente un elemento che si intreccia è quello a cui si accennava prima, dell'esplosione dell'autocomunicazione di massa, della possibilità per ognuno, senza lo sbattimento di dover discutere con una redazione, oppure di dover impegnarsi in un collettivo redazionale, ma insomma ognuno può cullare la sensazione, in alcuni casi è anche così, perché il citizen journalism, il giornalismo partecipativo è una cosa reale e non è affatto negativa, però diciamo che in molti casi magari anche la spinta a voler dire la propria opinione, a voler raccontare qualcosa, a voler pubblicare una bella fotografia perché magari qualcuno è capace di bene di far quello e via discorrendo, spesso è molto più semplice affidarsi al proprio profilo Facebook, a Twitter o una delle tante altre piattaforme di social networking o di microblogging. Non è che questo di per sé sia un aspetto negativo, però insomma sicuramente è tutto una prassi che ha forse almeno in parte sostituito un impegno precedente, anche che dava la possibilità insomma di declinare anche su questo terreno l'attivismo politico-sociale. Di fronte a tutto questo, allora viene da chiedersi, almeno a me viene da chiedermi, ma quindi chi glielo fa fare a un ragazzo, diciamo della mia età o più giovane, di prendere e imbarcarsi in un progetto del genere, spendere del tempo per portare avanti un progetto del genere? È una domanda non retorica, nel senso che non mi limito a porla così all'aria, ma invece invito un'altra delle persone che collaborano con questo progetto, Stefano, insomma, a provare a darci la sua risposta personale, perché poi di questo si tratta, e quindi spiegarci un po' perché oggi ti impegni in un'esperienza come questa. Sì, io collaboro con il giornale da circa 2 anni, un po' di più, poco più di 2 anni, e perché prendere parte, diciamo, da una prospettiva molto personale, nasce dalla mia formazione, quella più giovanile, quella delle scuole, dove per me avevo sempre ritenuto che una modalità di intervento a me, congeniale, a me affine, rispetto alla realtà, una modalità di intervento politica, sociale, fosse proprio quella del giornale. E in qualche modo l'ho sperimentata con tutte le sue forme, diciamo, giovanili o adolescenziali, quando ero nelle scuole. Uscito da lì, per una lunga fase, non c'era un orizzonte entro il quale poter fare questa cosa per me, e approdato a Bologna è stato poi, scoprendo Zic, poi conoscendo Zic, è stato esattamente quello che che era per me, già nella fase precedente, quella in cui pensavo che quello sarebbe stato la modalità più a me congeniale di poter, se non fare, di dire qualcosa, e l'ho ritrovata in questa forma, in questo progetto. Perché oggi? Perché, allora, rispetto alla questione della comunicazione, come dire, possibile a tutti senza nessuna mediazione, io ho sempre pensato, nonostante in parte la sperimenti anch'io, che se nella comunicazione individuale permessa dalle forme di social network o di blogging, si dà l'impressione che sia tutto più immediato, ma quell'immediatezza non è necessariamente un valore, anzi può produrre più danni che invece un qualcosa di significativo. Invece la mediazione del mettersi a discutere è esattamente quella che ti dà subito la risposta a quello che tu magari pensi in un primo momento, e che si scontra prima di poter essere detto, o poter essere scritto, in questo caso si confronta subito, no? Trova subito l'ostacolo, ma è l'ostacolo che gli consente di dire qualcosa che va al di là della prospettiva singola, per quanto poi chiaramente ciascuno scrive o dice il suo, però in quella forma di confronto c'è un più importante, non da poco, ma per niente da poco, ma fa molto la differenza nella mia prospettiva, che non è poi quella più professionale giornalisti, che forse, come dire, anche nel suo percorso formativo consente anche al singolo poi di mettere insieme tutti i pezzi precisamente. Però per me questo produce un valore inestimabile. E perché fare un giornale oggi? Perché il giornale, a differenza delle altre forme di comunicazione possibili oggi, è sempre stato, e mi rendo conto che è un approccio molto novecentesco, ma io ci sono, oltre che affezionatissimo, penso che sia ancora il paradigma dentro il quale ci si muove, è quello che può far saltare, può far mettere a nudo il re, o può colpire chi insomma, adesso è una formulazione un po' terra-terra, chi ha un potere, no? E il giornale è quello che, nel paradigma in cui siamo, che non è finito, lo mette alla berlina, lo prende di mira, e lo prende di mira non istituendo un altro potere. Poi su questo il dibattito magari è anche amplissimo, la letteratura pure, però riesce a farlo saltare senza essere quello che gli sostituisce. Per me è sempre stato questo il giornale, quindi perché prendervi parte per tutte queste ragioni qui?